gli inviarono perciò messaggeri con proposte di pace in questi termini: «Ecco, noi, i servi del gran re Nabucodonosor, ci mettiamo davanti a te. Fa di noi ciò che è gradito al tuo cospetto. Ecco, le nostre abitazioni, ogni nostro podere, tutti i campi di grano, le greggi, gli armenti e tutte le mandrie dei nostri attendamenti sono a tua disposizione. Servitene come ti piace. Anche le nostre città e i loro abitanti sono tuoi servitori. Vieni e trattali nel modo migliore che credi». Si presentarono dunque ad Oloferne quegli uomini e gli riferirono tali parole. Allora discese con il suo esercito verso la costa, costituendo presidi nelle città fortificate e prelevando da esse uomini scelti come ausiliari. Gli abitanti di quelle città e di tutta la regione circostante lo accolsero con corone, danze e al suono di timpani. Ma egli demolì tutti i templi e tagliò i loro boschi sacri, giacché aveva avuto il compito di distruggere tutti gli dei della terra, affinché tutti i popoli adorassero solo Nabucodonosor e tutte le lingue e tribù lo invocassero come Dio. Poi giunse dinanzi a Esdrelon, vicino a Dotain, che si trova di fronte alla grande catena montuosa della Giudea. Si accamparono tra Gebe e Scitopoli, e Oloferne rimase là un mese intero per poter raccogliere tutto il vettovagliamento per il suo esercito.